Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nel Pordenonese la Guardia di Finanza ha scoperto un'azienda vitivinicola che tra il 2020 e il 2023 ha impiegato 22 lavoratori in nero e 25 irregolari, con pagamenti anche fuori busta. Mancata sicurezza, i carabinieri del NIL sospendono l'attività di 3 aziende in provincia di Udine, 2 distributori e 1 officina meccanica, per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza. Complessivamente sono state erogate sanzioni per 150.000 euro. In che modo l'intelligenza artificiale sta trasformando la sanità? Villa Manin di Passariano ha preso il via 2 giorni del laboratorio sanità, durante il quale sarà illustrato il manifesto per un uso etico dell'intelligenza artificiale. Il processo per l'uccisione di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese deceduto lo scorso giugno dopo alcuni giorni d'agonia a seguito di un'aggressione in pieno centro Udine in via Pellicerie. Oggi in corte d'assise era in programma l'udienza con rito abbreviato. Manca personale negli asili nido, scuole materne e ricreatori comunali di Trieste. La protesta delle opposizioni sul fatto che da mesi gli assessori competenti rinviano la discussione in aula. Alla presenza del ministro della cultura Giuli sarà inaugurato nel pomeriggio a Gorizia il Festival Internazionale e Storia. Centinaia gli incontri con personaggi di primo piano fino a domenica. Presentata poco fa l'edizione 2025 della Coppa d'Autunno di Vela, ovvero la Barcolana, che quest'anno non si limiterà ad eventi sul mare ma si addentrerà anche in Friuli e nella Carnia. Beethoven, la sua musica protagonista del primo festival internazionale a lui dedicato, a Muggia da oggi fino a domenica, un evento che nasce dalla volontà di valorizzare il prezioso patrimonio della biblioteca beethoveniana, che vanta una collezione di oltre 11.500 elementi, e anche per promuovere il turismo culturale nella cittadina istroveneta. Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beyerz e da Francesca Terranova a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 29 maggio. Un GR che apriamo con una notizia di cronaca che è appena giunta in redazione, riguarda purtroppo un altro incidente sul lavoro, vittima un operaio di 24 anni, italiano. Questo incidente è successo oggi, stamane, in un'azienda di Villotta di Chions alle 10:30 circa, quando il giovane è stato colpito alla testa da una trave d'acciaio che stava manovrando ed è caduto a terra. Egli, trasportato al pronto soccorso di Udine, si trova in questo momento in prognosi riservata. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e Spisal. E poi altre 2 notizie di cronaca che riguardano il contrasto al lavoro nero. Nel Pordenonese la Guardia di Finanza ha scoperto un'azienda vitivinicola che tra il 2020 e il 2023 ha impiegato 22 lavoratori in nero e 25 irregolari, con 47 persone pagate fuori busta. L'indagine è partita da un controllo a Rauscedo e ha portato alla contestazione di ritenute non versate per oltre 41.000 euro. Le sanzioni contestate vanno da 82.800 euro a quasi 500.000 euro. Sale così a 156 il numero dei lavoratori in nero individuati dall'inizio dell'anno solo in Friuli Occidentale e 102 i datori di lavoro sanzionati. Contrasto al lavoro nero anche a Udine provincia, con i controlli a tappeto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Udine, Palmanova e Latisana, che hanno ispezionato distributori, mini market, un'officina e un negozio di moda. Hanno trovato irregolarità nel rispetto della salute e sicurezza dei dipendenti e anche lavoro nero. 3 attività sono state sospese con sanzioni per oltre 150.000 euro. A Ronchis e Latisana 2 benzinai sono stati multati per gravi carenze. In uno di 2 c'era anche un lavoratore in nero. A Tricesimo chiusa un'officina per non aver svolto la formazione né le visite mediche obbligatorie per i dipendenti. Violazioni registrate anche a Udine, a San Giovanni a Natisone e a Martignacco. In che modo l'intelligenza artificiale sta trasformando la sanità? A Villa Manin di Passariano ha preso il via la 2 giorni del laboratorio sanità. Durante l'evento, promosso dalla regione con il supporto dell'azienda informatica InSiel, viene presentato anche il manifesto per un uso etico dell'intelligenza artificiale, con focus su equità, telemedicina e gestione dei pazienti cronici. Ma è stata anche l'occasione per affrontare il monito della Corte dei Conti, che proprio ieri ha affermato come nella sanità regionale serva personale e un nuovo modello organizzativo per poter attuare la riforma dell'assistenza territoriale. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la sanità, è necessario guidare questa transizione evitando diseguaglianze e mantenendo al centro la persona. Lo ha sottolineato Vasco Giannotti, presidente del laboratorio Sanità 2030, in apertura della seconda edizione che ha preso il via con l'incontro L'intelligenza artificiale per cambiare la sanità. All'evento è intervenuto anche l'assessore alla salute Riccardi, evidenziando l'importanza di applicare le tecnologie soprattutto a beneficio dei soggetti più fragili nei percorsi legati alla cronicità e nella riduzione dell'inappropriatezza prescrittiva. Molto articolato l'intervento di Domenico Mantoan, consulente esperto presso il Ministero della Salute, che ha criticato l'attuale programmazione del personale medico, proponendo l'utilizzo di algoritmi per migliorarla. Ha inoltre suggerito di impiegare l'IA nella definizione delle tariffe sanitarie e nella gestione delle liste d'attesa. È atteso a breve l'intervento del presidente Fedriga, partner dell'iniziativa ENSIE, società in-house ICT della regione. L'evento si articolerà in due giornate dedicate a 9 aree tematiche fondamentali, tra cui il supporto nella presa in carico dei pazienti fragili, la gestione delle cronicità, l'equità di accesso ai servizi, il rafforzamento delle cure primarie tramite la telemedicina e lo sviluppo della ricerca e della bioinformatica. Nel pomeriggio sarà presentato il manifesto sull'intelligenza artificiale in sanità, un documento che promuove un utilizzo etico, responsabile e collaborativo dell'intelligenza artificiale. Passariano, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un aggiornamento sulla notizia di cronaca con cui abbiamo aperto riguardante l'infortunio sul lavoro che è accaduto a un operaio di 24 anni in un'azienda di Villotta di Chions. Il giovane è stato colpito alla testa da una trave d'acciaio che stava manovrando e caduto a terra. Ora si sa che la ferita più grave è al bacino e spinale, ma il giovane comunque non è in pericolo di vita ed è stato ritrasportato a Udine. Flash mob a Gorizia questo pomeriggio con il Comitato Salute Pubblica della città, in concomitanza con l'inaugurazione del Festival Internazionale Storia. Lo scopo è quello di salvare il sistema sanitario pubblico. L'appuntamento alle 17.30 davanti al Teatro Verdi per rendere note le gravi difficoltà incontrate dagli oltre 5.000 goriziani senza medico di famiglia. Inoltre il Comitato punta il dito sulle carenze in medicina territoriale, l'incertezza sul futuro e di i reparti dell'ospedale. Ne parliamo con l'ex chirurgo di Asugi, Adelino Adami, oggi in pensione e membro del comitato. Il titolo del festival è La città, e secondo noi una città senza sanità è una città che non funziona. Vorremmo che si cominciasse a ragionare anche sulla città che vorremmo, come vorremmo che fosse la sanità della nostra città. Noi abbiamo la sensazione che stiamo vivendo una crisi molto profonda, sia per quanto riguarda la sanità ospedaliera, sia per quanto riguarda la sanità territoriale. Per quanto riguarda la sanità territoriale, ci sono più di 6.000 cittadini di Gorizia che non hanno un loro medico di medicina generale. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sappiamo che si sta decidendo se resterà la terapia intensiva cardiologica con la cardiologia qui a Gorizia. Sappiamo che il piano oncologico sta penalizzando fortemente per quanto riguarda l'urologia di Gorizia. Quindi di fronte a queste criticità ci stiamo chiedendo, ma la regione sta mettendo sempre più soldi nella sanità, però abbiamo come la sensazione che li sta spendendo, non li sta investendo, cioè non vediamo frutti negli investimenti che si fanno. Per quanto riguarda per esempio la Casa della Salute, sono stati spesi più di 30 milioni per ristrutturare il vecchio ospedale pneumologico, ma a tutt'ora non abbiamo un progetto che ci dica cosa verrà trasportato lì dentro, come funzionerà. Un mio vecchio primario mi diceva che per organizzare bisogna sapere chi fa che cosa, in quanto tempo e con quali fondi. Se noi attualmente siamo senza medici di medicina generale sul territorio, come faremo a far funzionare questa struttura? Dovremo far capire alle persone qual è la differenza tra un servizio sanitario pubblico che si prende cura della persona e quello che è un sistema sanitario privato che fornisce prestazioni. Passiamo ora a parlare del processo per l'uccisione di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese deceduto lo scorso giugno dopo alcuni giorni d'agonia a seguito di un'aggressione consumatasi nei pressi di un locale in pieno centro a Udine in via Pellicerie. Oggi in corte d'assise è in programma l'udienza con rito abbreviato. È iniziata alle 11 a Udine l'udienza preliminare per l'omicidio di Shinpei Tominaga. Presenti in aula davanti al GUP sia uno degli imputati, Daniele Vedam, 22 anni, sia Giuseppe Venturini, l'amico dell'imprenditore giapponese che era con lui quella sera del 22 giugno 2024 e che ha riportato lesioni dopo il pestaggio da parte dei tre ragazzi venuti dal Trevigiano. Daniele Vedam, appunto, coetaneo di Samuele Battistella, reo confesso, colui che ha sferrato il pugno a Tominaga materialmente, Tominaga che morì tre giorni dopo per le gravi conseguenze del ferimento all'ospedale di Udine, e non presente in aula ma anche imputato, Abdallah Juama, 22 anni, dichiarato capace di intendere e di volere da una perizia psichiatrica, i cui esiti sono stati discussi la settimana scorsa, sempre qui davanti al GUP Roberta Paviotti. Il procedimento si svolge con rito abbreviato, come scelto dagli imputati nell'udienza del dicembre scorso. I tre beneficeranno quindi di uno sconto di un terzo della pena e saranno giudicati sulla base delle indagini della Procura, PM e Laura Collini. Costituiti parte civile i familiari di Tominaga, assistiti dall'avvocato Alberto Tedeschi, ma anche Venturini, l'amico del giapponese, che ha subito lesioni durante l'aggressione. Parte civile è pure uno dei due ucraini picchiato con una sedia, semplicemente per aver chiesto dove si poteva prelevare denaro nella rissa che ha preceduto l'omicidio. Gli imputati invece sono rappresentati dagli avvocati Stefano Arrigo, Guido Galletti e Tino Maccarone del Foro di Treviso. Per la morte di Tominaga l'accusa della Procura di Udine è di omicidio preterintenzionale, in concorso per Vedam e Juama. I tre dovranno rispondere anche di lesioni aggravate. Vedam è accusato anche di minaccia con l'uso di un coltello recuperato nel B&B in cui i tre alloggiavano quella sera. Il pronunciamento del giudice per l'udienza preliminare è atteso a momenti. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. La commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro è a Trieste oggi e domani per una serie di audizioni in prefettura seguite da un punto stampa questa sera alle 18. La missione, guidata dal senatore Tito Magni, eletto con Alleanza Verdi e Sinistra, è ora nel gruppo misto. Salute e sicurezza sul lavoro, giornata di sensibilizzazione organizzata dall'Ordine degli Ingegneri di Trieste, all'Istituto Superiore Volta, protagonista delle cronache per il risarcimento da 600.000 euro che il Ministero dell'Istruzione dovrà pagare a un ex dipendente dell'istituto deceduto per mesotelioma proprio a causa delle fibre di amianto respirate in quella struttura negli anni 70. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza con inizio alle 14. Manca personale negli asili nido, nelle scuole materne e ricreatori comunali di Trieste. È iniziata a mezzogiorno la conferenza stampa sotto il municipio con PD, Lista Punto Franco, Movimento 5 Stelle e Adesso Trieste, per denunciare il fatto che da tre mesi gli assessori competenti rinviano la discussione in merito. Discussione richiesta con forza dai consiglieri di minoranza, in particolare da Rosanna Pucci del PD e dai sindacati. Richiesta quasi tre mesi fa, rinviata per due volte di seguito la quinta commissione con prima firmataria la consigliera comunale PD Rosanna Pucci, sottoscritta da tutta l'opposizione di Trieste sulla carenza del personale dei servizi negli asili nido e infanzia del comune. Rosanna Pucci, quali sono i problemi che voi denunciate? Noi sappiamo che i rapporti numerici educatori e bambini non sono rispettati, sappiamo che gli educatori fanno più ore del dovuto per sopperire la mancanza del personale, sappiamo anche che manca la copertura con i supplenti, per cui noi chiediamo un ampliamento delle risorse educative, anche nell'ottica dell'apertura dell'asilo di Roiano che il centrodestra vuole dare in mano in parte ai privati. Il comune di Trieste dice che questo rinvio è dovuto a motivi personali degli assessori competenti, non è una volontà di scappare dalle problematiche, anche perché la pianta organica è rispettata e tutti i posti sono pieni, 432 persone per infanzia e nidi. In caso di malattie viene contattato il personale cosiddetto viaggiante, cioè a tempo determinato preso dalle graduatorie. È sufficiente? Loro fuggono dalle responsabilità. Ci dicano chiaramente se vogliono abdicare dal loro ruolo di gestori della cosa pubblica a vantaggio di quella privata. Noi daremo battaglia su questo tema perché vogliamo garantire una scuola pubblica di qualità e una scuola al servizio della comunità di Trieste. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Ed ora uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 20 gradi, a Gorizia 24, a Udine 23, a Pordenone 21 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 19 gradi, a Tervisio 18, a Forni di Sopra 17 gradi e 5 decimi, a Piancavallo e Sappada 15 gradi, sul Monte Zoncolan 11, sul Monte Lussari 9 gradi e 5 decimi, passando la costa a Lignano ci sono 22 gradi, 21 a Grado. Le previsioni nel pomeriggio: cielo da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di qualche rovescio o temporale, venti a regime di brezza. Domani il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza. Sull'alta pianura e sulla zona montana al pomeriggio sarà possibile cielo variabile, ma con bassa probabilità di pioggia. E traffico in aumento previsto sull'autostrada del nord-est per il ponte dell'Ascensione, con migliaia di turisti, soprattutto dall'Austria, diretti verso Friuli Venezia Giulia e Veneto, attesi i bollini rossi tra oggi e i primi di giugno, con rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, sulla 4 e sulla 23. Per gli aggiornamenti in tempo reale consultare il sito infoviaggiando.it. Inaugura oggi È Storia, il festival internazionale che porta a Gorizia personaggi come Gad Lerner, Ezio Mauro, Massimo Giletti, Antonio Polito e Patrizia Figini, solo per citare alcuni dei nomi fra quelli attesi oggi. Anche il ministro della cultura Giuli salirà sul palco del Verdi per i saluti istituzionali alle 15. Centinaia gli incontri da qui a domenica 1 giugno, quelli in programma solo oggi sono 70. Comincia con una conferenza al Teatro Verdi che ricorda la fine della Seconda Guerra Mondiale, la 21ª edizione del Festival È Storia a Gorizia. Di fronte a un pubblico di appassionati e studenti delle scuole, tre storici noti in tutta Europa, tra cui lo spagnolo Javier Rodrigo e il francese Olivier Vievorka, raccontano le tracce pesanti sulla nostra esistenza lasciate dalla più immane tragedia della storia dell'uomo. Olivier Vievorka. The first element is to remember. Il primo elemento da ricordare è l'enorme numero di vittime. Dobbiamo pensare anche al significato della Seconda Guerra Mondiale. L'ordine costruito nel 1945 ha davvero rimodellato il mondo fino a oggi. Until today. Non manca nella conferenza il riferimento alla storia di Gorizia e alle conseguenze lasciate sulla città dei conflitti mondiali. Mimmo Franzinelli, storico. Le ferite qui, la mia impressione, io sono un antico estimatore e partecipatore del festival, sono più profonde, non si sono ancora chiuse tra le diverse etnie, tra le diverse ideologie. Qui vi è una maggiore sensibilità rispetto ad altrove. Nei 300 eventi organizzati, la peculiarità della storia goriziana si intreccia con quella delle altre città del mondo di cui si parlerà, da Uruk a Gaza, da Babilonia a Kiev, da Atene a New York. Il tema dell'edizione è infatti quello delle città. Adriano Ossola, presidente dell'associazione È Storia. Possiamo dire che in un certo senso è stato lo spirito dei tempi. Uso questa espressione per riferirmi naturalmente al fatto che Gorizia e Nova Gorizia siano città congiunte, capitale europea della cultura. Gorizia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Open Day allo IAL di Basovizza per chi è interessato a lavorare nella ristorazione. Dalle 14.30 studenti e professori illustreranno l'approccio Imparare facendo, i percorsi formativi della scuola in via Gruden. Presentata poco fa l'edizione 2025 della Coppa d'autunno di vela, la Barcolana, che quest'anno non si limiterà ad eventi sul mare, ma si addentrerà anche in Friuli e nella Carnia. Sentiamo le anticipazioni del ricco programma da Mitja Jaluz, presidente della società velica organizzatrice Barcola e Grignano. 57esima edizione di Barcolana all'insegna di un nuovo payoff dove la passione incontra il mare. Sarà una Barcolana di incontri tra comunità, tra sportivi diversi, tra territori. La Barcolana per la prima volta arriva in Carnia, si estende a diversi sport, il SUP, il nuoto, una Barcolana fan che addirittura coinvolgerà tutta Italia, la Barcolana Maxi. Tanto mare, tanti sport del mare, ma tanta cultura, Barcolana Summit, Barcolana un mare di racconti e poi domenica 12 ottobre il gran finale con la 57esima edizione della Coppa d'autunno, con tante novità. Per chi si iscrive, una lotteria e si potrà vincere addirittura un'automobile per riuscire a coccolare i nostri iscritti. In un mondo che si divide vogliamo lanciare un messaggio: l'incontro tra sport genera positività. Poi ci sarà un momento dedicato all'evento in Carnia, perché è una delle novità più importanti di questa edizione. Quello che voglio dire è che il lago di Cavazzo è un luogo meraviglioso di una regione che unisce la terra, la collina, la montagna e il mare nell'arco di tre quarti d'ora, perché da Lignano, dove si terrà la Barcolana Beach Sprint, a Grado, dove si terrà la Barcolana SUP, a Cavazzo ci si impiega davvero meno di un'ora. E questa è una peculiarità della nostra regione che insieme a Promoturismo vogliamo valorizzare e promuovere. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Beethoven, la sua musica, è protagonista del primo festival internazionale a lui dedicato a Muggia, da oggi fino a domenica. Un evento che nasce dalla volontà di valorizzare il prezioso patrimonio della Biblioteca Beethoveniana, che vanta una collezione di oltre 11.500 elementi e anche per promuovere il turismo culturale a Muggia. Concerti gratuiti per le calli, per i concerti serali in teatro i biglietti sono su Viva Ticket. Il programma, con Marco Secco, direttore artistico della Società dei Concerti, coorganizzatrice del festival. Sentiamo. I concerti saranno tanti, saremo sempre a Muggia ovviamente, soprattutto nel teatro, quindi nel Teatro Verdi, i concerti serali che apriremo con Giulia Toniolo, quindi al pianoforte, giovedì, mentre invece venerdì a Muggia Vecchia saremo con il quartetto Arola. Sabato e domenica avremo la stupenda possibilità di ascoltare Pietro De Maria, che si esibirà da solo sabato sempre al Teatro Verdi, invece domenica in chiusura con il quartetto Arola, addirittura facendo uno dei concerti di Beethoven per pianoforte nella trascrizione di Lachner insieme al quartetto. Insomma, tantissima musica. Negli altri momenti anche avremo tantissimi ospiti, artisti in residenza, Emanuele Savrone, il quartetto New Era, e Matteo Fusi, insomma tutti gli strumentisti che saranno lì, che suoneranno nelle calle, nel museo della Biblioteca Beethoveniana. E con oggi comincia anche la stagione estiva della Società dei Concerti, che, lo ricordiamo, in estate non va in vacanza, anzi. Assolutamente, infatti questo festival parte insieme alle attività di quelle che poi sono le attività estive della Società dei Concerti, e poi ne faremo due concerti in regione con dei quartetti, e soprattutto ci tengo forse a raccontare un concerto molto importante, che il 19 giugno al Castello di Miramare avremo ospiti l'orchestra di Pomeriggi Musicali di Milano, che fa 80 anni, e quindi insomma ecco che vengono a festeggiare anche a Trieste al Castello, quindi ci sarà questo bellissimo concerto al Castello con l'orchestra di Pomeriggi Musicali di Milano. La violinista Laura Marzadoni, primo violino della Scala di Milano, è in concerto questa sera al Teatro Verdi di Trieste, l'occasione in onore dei 60 anni dell'orchestra Ferruccio Busoni, una delle formazioni più longeve d'Europa, nata come formazione da camera, attualmente a organico variabile. Inizio alle 20:30, dirige Massimo Belli, figlio di Aldo, colui che fondò l'orchestra nel 65. Il concerto sarà poi replicato domenica a Milano. In programma opere di Vitali, Grieg, Saint-Saëns, Sibelius, Viozzi, Sofianopolo e Busoni stesso. I 23 ponti che uniscono le sponde dell'Isonzo dalle Alpi all'Adriatico, una mostra ideata dall'Ordine degli Ingegneri di Gorizia assieme ai colleghi sloveni, omaggia la capitale della cultura europea. Nel servizio sentiremo le interviste a Edino Valkovic, responsabile scientifico della mostra, e Giorgio Brandolin, coordinatore del progetto. Due ponti proprio simbolo dell'Isonzo, uno è quello di Salcano e l'altro è quello di Piuma. Partiamo da quest'ultimo. Il ponte di Piuma, o di Peuma in sloveno, diciamo, è stato il primo ponte che collegava la parte friulana a Gorizia. L'attraversamento solido, diciamo, perché per attraversare il ponte si usava la barca, il passo di barca. E, diciamo, siamo 1400-1500, e quindi racconta quel ponte, racconta le vicende delle varie amministrazioni, racconta la storia dei ponti, perché siamo passati ai ponti con l'impalcato orizzontale appoggiato sui pilastri, sui piloni, diciamo, del ponte, al ponte ad arco, al ponte in ferro durante il rifacimento della Prima Guerra Mondiale, e poi all'attuale ponte, che è un ponte in calcestruzzo armato, realizzato nel 1946 dall'amministrazione alleata. E poi c'è il ponte di Salcano con il suo arco di 85 metri sotto il quale è volato l'aviatore sloveno Benjamin Licher nel 2019 per omaggiare i 110 anni del primo volo dei fratelli Russian. Probabilmente il ponte più noto dal punto di vista della bellezza complessiva, che significa, diciamo, l'unione della funzionalità alla struttura, è un ponte ad arco in pietra, cioè in conci di pietra. Ogni concio ha una sua fisionomia e soprattutto all'epoca, siamo 1906, quindi costruito dall'impero asburgico, 1906, aveva una luce dell'arco di 85 metri che lo portava ad essere il ponte più importante, anzi di maggiore luce in Europa. Distrutto durante l'arco principale, distrutto durante la Prima Guerra Mondiale, quando arriva il Regno d'Italia, quando arrivano gli italiani, lo ricostruiscono con la stessa tipologia ed è ancora un ponte funzionante, è un ponte ferroviario. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Giorgio Beerz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Marco Ferrito e di Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.